arriva puntuale il Jazz Live e nuovamente buongiorno ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1. Oggi solo soletto per la puntata odierna, vigilia di weekend, un raggio di sole mi terrà compagnia nello studio diretta, ma avremo anche l'intervento telefonico di Alfredo Pasquali in quel di Bergamo Jazz edizione 2024 di cui abbiamo dato presentazione nella puntata precedente. Oggi inviato speciale in quel della città aerobica che ha un programma veramente molto interessante, ma ne parleremo nella seconda parte del format Jazz Live che, come ben sapete, inizia il suo viaggio da Ferrara. Intanto per comunicazione e co-conduzione 333-180-9494 per avere informazione, in questo caso anche sui concerti per Ferrara, per Bologna San Lazzaro e anche varie ed eventuali. Questa settimana, si dice a Bologna, ho fatto lo sfrombolone, cioè ho veramente girovagato per concerti come mai mi era capitato, neanche da ragazzino. Insomma, ho assistito a 5 concerti, per cui anche nel piccolo format Altri Suoni avremo modo, grazie al binario, di conoscere nuove sonorità, con un concerto veramente molto bello che si è tenuto ieri sera nella sede di Via De Carracci. Un altro programma da tenere sotto osservazione: il concerto Rob Mazzure che per Fabrizio Puglisi per Angelica al Teatro San Leonardo, Centro di Ricerca Musicale, invece è stato protagonista per la giornata di giovedì, un concerto incredibile, di una bellezza veramente molto intensa e di una ricerca per costruire non solo tessiture nuove ma anche una capacità di comunicazione orchestrale con giovani musicisti, protagonisti e co-protagonisti il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e l'incursione piacevolissima del clarinetto basso Dan Kinzelmann. Insomma, un'altra serata all'insegna della grande musica. Poi la settimana è partita con il Paradiso Jazz, l'apertura con Bobby Watson che ritroveremo a breve anche in quel di Ferrara. Insomma, allora, ascoltati per voi, io direi di cominciare con quello che è stato il primo che ha dato il via a questa mini rassegna. È una formazione che vede un frontman, è Mark Copland. Ho parlato di tessiture, ecco, Mark Copland è un grande tessitore di raffinatezza, ricerca, capacità e gusto, con una tecnica sopraffina e una capacità di raccontare veramente intensa. Ho rubato un piccolo brano del concerto tenutosi sabato scorso a Ferrara, il disco Someday e il lavoro di un quartetto che vede al suo fianco Drew Grass al contrabbasso, Joey Pinciotti, un paesà, alla batteria e Robin Vereyen al sassofono. Beh, è stato, come ho detto, un concerto che ha dato una trama, ha dato una tessitura, ha dato emozione. Il disco è stupendo, è uno dei dischi che segnalo per il 2024, Someday, appunto, qualche giorno. Beh, se fossero così tutti i giorni, insomma, come questa musica, certamente avremmo motivo di consolazione ulteriore e di grande gusto musicale. Vi ho detto che ne ho rubato un piccolo tratto, ve lo propongo, poi torniamo in diretta e ci avviciniamo a quello che invece sarà questa sera al Torrione. Mark Copland. We'll be right back. gran concerto, gran disco. Someday Mark Hopland e il suo quartetto. Qui stiamo ascoltando Rob Reyen al saxofono. Joe Pinciotti alla batteria, Drew Grass al contrabbasso. Anzi, già che ci siamo, propongo anche il disco che ho riportato. Come sapete, sono una calappia dischi da concerto. Il disco è una tessitura, è una trama, l'ho ripetuto più volte. La microsensazione che viene comunicata è indubbiamente questa, in una copertina minimale, ma assolutamente, perché anche l'occhio vuole la sua parte, se vogliamo. A volte l'abito fa il monaco, non solo per quanto riguarda la letteratura, ma anche per il jazz. E a tale proposito, beh, avrò motivo di aggiungere anche qualche nota per quanto riguarda il concerto del Binario ieri sera, con una formazione giovane, una formazione che ha portato al viaggio, che ha portato a unire luoghi così lontani ma così vicini, e una copertina che ha dei riferimenti estetici molto interessanti, come del resto la musica di Macria, che ha tenuto il palcoscenico del Binario nella serata di ieri. Ma restiamo a Ferrara. Queste note come base, partiamo con il weekend che inizia già da questa sera. Primo concerto ufficiale di primavera nella sede bellissima del Jazz Club Estense, questo torrione rinascimentale con una portata acustica molto molto intensa e allo stesso tempo un'accoglienza che non mi stancherò mai di ripetere, unica e speciale. Questa sera Bobby Watson col suo New Quintet, ne abbiamo parlato tanto, è stato presente anche a San Lazzaro, per cui ho avuto modo tra i concerti assistiti anche di trovare la formazione New Quintet per Bobby Watson, che vede Wallace Rooney Jr. alla tromba, figlio d'arte, Bobby Watson al contralto, Jordan Williams al pianoforte, Curtis Landy al contrabbasso, Victor Jones alla batteria. Bobby Watson è stato un concerto molto molto divertente, ma questa non deve essere un'accezione intesa come superficialità, anzi è stato un tributo al new hard bop veramente molto incisivo, ha ricordato diversi standard e anche composizioni originali, ha chiuso tra l'altro con un Always There in versione new jazz che è stato un bis quanto mai accattivante, che ha dato una completezza di espressione musicale forte, ma al contempo, e non è certo una brutta parola, divertente. Io vi porto in a sentimental mood, vi ho parlato di Wallace Rooney Jr., ecco questa la sua interpretazione di In a Sentimental Mood, ripresa dal vivo. Thank you. Immancabili gli applausi dopo questo assolo di Wallace Rooney Jr. al termine di un'interpretazione in a sentimental mood. Allora, vi ho parlato del contralto di Bobby Watson, il figlio d'arte che avete sentito, il più giovane della formazione, molto talentuoso, Wallace Rooney Jr. Resta un piano trio, sì, ha dato la possibilità a Bobby Watson di espressione anche a questo piano trio nel concerto che ho assistito nella settimana precedente, e la formazione che si riduceva ma che manteneva intensità con Jordan Williams al pianoforte, Curtis Landy al contrabbasso e Victor Jones alla batteria, in questo caso diventa un modern jazz modale molto forte, con chiaroscuri e interpretazioni intense. Io lo consiglio assolutamente. Quando interviene Bobby Watson, certo non è di primo pelo, non è giovanissimo, non ha certo quella forza di gioventù, ma indubbiamente ha la capacità e la raffinatezza di saper strutturare un concerto che, come ho detto, non è solo divertente. Inizia così la settimana, il weekend al Torrione per venerdì 22 marzo 2024 alle ore 21:15, cioè questa sera, con The New Quintet di Bobby Watson. Domani al Torrione, attenzione, arriva Miguel Zenon, e certamente sarà un concerto che, come abbiamo già anticipato in diversi motivi di incontro, darà una freschezza ulteriore dovuta alla fresca premiazione del Grammy per il miglior disco di Latin Jazz. Miguel Zenon, che fa parte di un selezionato gruppo di musicisti che ha saputo bilanciare il folklore dell'America Latina con il modern jazz, l'innovazione con la tradizione, la forza, la qualità di un leader importante che guida da oltre 20 anni un rodato quartetto quartetto di cui vi darò appunto la presentazione. Ultimo album, Musica de las Americas, che cercherò di accaparrarmi, è un viaggio di tradizione folklorica da New Orleans al Brasile, da Porto Rico all'Africa. Miguel Zenon è un ricercatore, nello stesso tempo una capacità di innovazione. Là adesso il nuovo disco e il concerto sarà una sorpresa, perché come ben sapete questi grandi talenti ogni volta hanno maniere e modalità di stupire, però tutto questo ingrediente importante, no? È stato definito dall'Africa, il folklore, il tropicalismo, da Porto Rico, l'America Latina, ok, perfetto, questo indubbiamente è una presenza, ma la capacità di Miguel Zenon, ho confuso con Luis Perdomo, che lo accompagna fedelmente al pianoforte, è quella di renderlo sotteso, è quello di, a volte è un gioco a percepirlo, ed è bello riuscire a viaggiare in questo modo senza che determinati ingredienti o caratteristiche ti vengano, per così dire, proposti in maniera smaccata, no? Ma almeno tutto il Miguel Zenon che ho ascoltato ha sempre avuto questo filo conduttore, che è bello scoprire queste caratteristiche che non sono mai così buttate in maniera troppo esplicita, ecco, che a volte risultano, poi certo, chiaramente come ben sapete ho una grande fascinazione per queste sonorità, però se a volte vengono proposte in maniera molto smaccata è un gioco pericoloso, ecco, mettiamola così. Intanto ho portato un disco della Impulse per fare un po' da base, per intrattenere abbiamo ascoltato Sweet Georgia Peach di Russell Malone, in precedenza ora Donald Harrison, New Hope, ma è il momento di ascoltare dal disco precedente di Miguel Zenon, Sonero, the Music of Ismael Rivera. La formazione però sarà la stessa di quella presente per la giornata di domani, sabato 23 marzo, al Torrione di Ferrara. Miguel Zenon Quartet, Las Tubas. Caratteristiche che ho elencato in precedenza, è la grande forza quella di Miguel Zenon. Luis Perdomo al pianoforte, Hans Glaubschink al contrabbasso, Dan Weiss alla batteria, in un quartetto appunto che come ho detto, fresco di Grammy Award, e sarà motivo di freschezza anche nell'ascolto per il miglior disco di Latin Jazz. Michael Zenon, domani sera al Torrione. Siamo arrivati a domenica 24 marzo. Allora, la rassegna sericotonale a cura di Istantanea è una rassegna che, come ben sapete, è abbinabile ad altri suoni. Conosceremo Gino Robaira alla direzione dell'Istantanea Ensemble, dove la presenza di Beat Le Bon, che ho contattato per saperne di più, porterà, oltre che una ricerca particolare nella struttura musicale, un aspetto materico. Allora, molto curioso, no? Si parlava di carta, alla fine abbiamo svelato, appunto, per dare anticipazione al contenuto e ai suoni, Gino Robaira, tra l'altro musicista che ha suonato anche insieme a Anthony Braxton, di cui ho portato un disco, musicista matematico clamoroso Anthony Braxton. Comunque, restiamo al progetto di Gino Robaira, Radical Divination, an opera of algorithm paper making, attraverso la costruzione della carta. Allora, sentiamo da Beat Le Bon di che si tratta. Bene, si parte. Allora, è la chiusura del weekend per quanto riguarda l'incontro al Torrione Jazz Club di Ferrara. Siamo con Piero Beat Le Bon, che saluto. Bentornato, buongiorno Piero. Buongiorno a tutti. Allora, domenica con la curatela di Istantanea, con Serico Tonale e questo progetto di cui, appunto, vorrei tu rendessi edotto non solo me ma anche il nostro pubblico. Di che si tratta? Cercherò di edurre anche me stesso, perché ne so un pochino quanto voi, a parte, insomma, qualche dettaglio in più. Il progetto, che si chiama Radical Divination, è una sorta di opera composta dal musicista californiano Gino Robert, un musicista dalle mille collaborazioni, è veramente dallo spettro amplissimo. Si parla di collaborazioni con Anthony Braxton, di cui è stato il batterista negli anni 80 per molto tempo, fino a suonare le percussioni in più di qualche disco di Tom Waits, per esempio. Quindi, insomma, un musicista a dir poco eclettico, talmente eclettico che ultimamente si sta dedicando anche alle arti grafiche, alla stampa artigianale e ultimamente anche alla fabbricazione della carta. E questo è il punto da cui parte tutto quanto, perché Gino domenica fabbricherà, proprio dentro al Torrione, fabbricherà della carta, la quale carta si tramuterà istantaneamente in delle partiture grafiche che io, assieme ai miei valenti colleghi, che saranno Alfonso Santimone al pianoforte, Francesco Bigoni clarinetto, sassofono, elettronica, Julien Laroche alla chitarra, Simone Sferruzza alla batteria e percussioni, appunto interpreteremo queste partiture grafiche. Gino Robert sarà coadiuvato alla fabbricazione della carta da Marta Raviglia, quindi vi aspettiamo in numerosissimi per questa incredibile opera multimediale, a dir poco multimediale. Esatto, a dir poco multimediale, dove musica, immagine, creatività e manualità si fondono assieme, da quel che ho capito. Esattamente. Manualità nella creazione di questi origami in musica o sono fuori strada? Non sono degli origami, verrà proprio creata la carta, cioè fabbricata la carta, proprio la pura materia. Quindi il Torrione si tramuterà proprio in una cartiera, quindi ci sarà grandi quantità di acqua, quindi portatevi un grembiule in modo da non schizzarvi troppo. Ho capito, scusa se ho svelato o ti ho fatto svelare, però insomma io stesso ne ho grande curiosità. L'appuntamento comunque è a domenica, Serico Tonale a cura di Istantanea. Grazie Piero Beat Le Bon per questa Radical Divination e appuntamento a Ferrara. Grazie Piero e buona giornata. Grazie a voi, a presto. titolo Bond, che ringrazio tra l'altro se ho insistito su queste modalità di costruzione, ma sinceramente mi ha lasciato un po' certamente curioso, allo stesso tempo anche stupito per quanto riguarda Serico Tonale a cura di Istantanea, la produzione di carta che poi prenderà da partiture musicali per Radical Divination e opera per Making, e certo che già dal titolo, però Gino Robeira la direzione, Istantanea Ensemble con Piero Bittolo Bon la voce e la curatela per questa produzione, co-curatela di Marta Raviglia insieme a Gino Robeira, che è stato negli anni 80 batterista anche di Anthony Braxton, che stiamo ascoltando. Sarà la conclusione del programma della Domenica del Torione, vi lascio in buone mani, vi lascio con Anthony Braxton, un po' di pubblicità, poi si torna in diretta con il Jazz Live di oggi. Un buon ascolto, a tra poco e buon jazz.